Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. Pascal. Si sta svolgendo in questi giorni a Milano il 47esimo congresso di cardiologia promosso dal Dipartimento Cardiotoracovascolare De Gasperis dell'ospedale Niguarda Cagranda. Leitmotiv del programma di quest'anno: la multidisciplinarietà nell'approccio ai problemi che interessano quello che a tutti gli effetti è il primo ministro degli organi, il cuore. Qui in studio con me la dottoressa Maria Frigerio, direttore del convegno e direttore del Dipartimento De Gasperis. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Grazie di cuore, come si dice, per essere qui. E qua in studio con noi abbiamo il piacere di avere anche il dottor Luigi Martinelli, cardiochirurgo del De Gasperis. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Dottoressa Frigerio, che novità ci porta questo convegno che vede riuniti i cardiologi italiani? Bene, questo convegno raduna la cardiologia italiana da tanti anni e cerca di portare le novità alla disponibilità della conoscenza di tutti e discutere l'impatto di queste novità nella nostra pratica quotidiana. Devo dire che quest'anno sicuramente la cosa più innovativa si tratta dei nuovi farmaci anticoagulanti, farmaci che possono essere utilizzati in campo cardiologico dai pazienti con fibrillazione atriale. Tutti quelli che hanno questa patologia sanno che devono periodicamente fare dei prelievi per controllare la dose del farmaco che devono prendere. Con questi nuovi farmaci non sarà più necessario, perché possono essere utilizzati con un buon livello di efficacia e di sicurezza senza bisogno di controlli di laboratorio, con un miglioramento della qualità di vita dei pazienti. E poi altri aspetti innovativi proprio nell'approccio alle cure. Quando parliamo di multidisciplinarietà, abbiamo visto che negli ultimi anni questa non è più una parola, non è più solo una discussione culturale, ma è entrata nell'operatività pratica, come potrà anche illustrarvi il dottor Martinelli. Dottor Martinelli, lei è un cardiochirurgo. Sul fronte della cardiochirurgia, che novità ci sono? Beh, le novità in cardiochirurgia sono importanti, riguardano soprattutto la riduzione degli approcci agli interventi cardiochirurgici. Un intervento cardiochirurgico può essere effettuato sempre con incisioni più limitate, più accettabili per il paziente. Per l'impianto di valvole, ad esempio, può essere effettuato un piccolo taglio sotto la mammella, questo per la mitrale. Per la valvola aortica può essere effettuato un approccio sulla parte mediana dello sterno, tutte incisioni che lasciano poche tracce. Che prima invece venivano fatte con... Sì, la classica sternotomia. Fortunatamente, quando ci vuole, perché certo, molti interventi cardiochirurgici necessitano ancora di questo approccio. Però in molti casi è possibile limitare i danni per il paziente. Questo è importante sia fisicamente che psicologicamente. Certo, perché per il post-operatorio. Assolutamente, ma soprattutto perché la malattia viene neutralizzata. Lei pensi a una giovane signora con una valvolopatia mitralica che può sentirsi completamente libera sia dalla malattia sia da residuati dell'intervento per questa malattia. Straordinario. 800 24 00 24, siete come sempre invitati ad intervenire o a scriverci al 349 238 6666. Come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Dottoressa Frigerio, anche per le malattie cardiovascolari, che ricordiamo costituiscono ancora una delle principali cause di morte e di disabilità e rappresentano nel nostro paese uno dei più importanti problemi di salute pubblica, ci sono le prime donne, le Cenerentole. È vero, nel senso che ci sono le patologie più note e quelle che invece sono più trascurate. Tra le più note sicuramente è giustamente l'infarto, perché è importante prevenirlo, aggredirlo precocemente. Tra le più note è anche l'ipertensione, altrettanto importante tenerne conto, anche perché la pressione alta, se non curata, può portare delle gravi conseguenze. Ma purtroppo poi trascuriamo una forma che, volendo, è sì l'evoluzione delle patologie trattate e soprattutto non trattate, che è lo scompenso cardiaco, una condizione molto comune che ha bisogno di cure croniche, che ha bisogno di una certa ostinazione e perseveranza e quindi forse di minor impatto anche di proprio mediatico e di minor soddisfazione anche per noi da descrivere come medici, e forse anche un po' per questo che l'abbiamo trascurata. E invece è una patologia dai grandi numeri. Dottoressa Frigerio, che cosa succede in fondo al nostro cuore quando si scompensa? A me viene in mente una macchina, un motore che inizia a fare fatica, ma sicuramente lei è in grado di spiegarci esattamente che cosa succede a un cuore scompensato. Certo, lo scompenso può dipendere da alterazioni del motore, della macchina o di tutti e due. Nel senso che nelle forme più tipiche, proprio quelle di interesse prevalentemente cardiologico, il problema è nella struttura del muscolo cardiaco o nella sua funzione, che può avere un danno per diverse cause. Abbiamo detto già la pressione alta, l'infarto, ci sono poi delle forme di malattia intrinseca del muscolo, qualche volta associata a distrofie, qualche volta ereditarie, qualche volta conseguenti a fatti infiammatori o infettivi. Ci sono le forme di scompenso che conseguono a valvulopatia o a malattia congenita, e queste possono essere tante volte trattate o prevenute per via chirurgica. Lo scompenso, vogliamo ricordare, è la maggiore causa di ricoveri ospedalieri nei paesi industrializzati dopo il parto naturale, e questo fa dei grandi numeri di sicuro. Dottoressa Frigerio, i sintomi dello scompenso possono essere confusi con segnali di altri disturbi? E quali sono? A posteriori i sintomi dello scompenso sono piuttosto caratteristici, ma a priori possono certamente essere confusi o anche sottovalutati, soprattutto nei soggetti giovani, dove raramente si va a pensare che il paziente possa avere uno scompenso cardiaco, perché lo scompenso è più frequente, anche se non esclusivo, nell'anziano. I disturbi più frequenti sono la tachicardia, la stanchezza per fare delle attività che prima venivano svolte senza particolari difficoltà o disagio, la mancanza di respiro, sempre nell'attività fisica o soprattutto quando si prende la posizione sdraiata. E nelle quindi forme... una mancanza, mi scusi, di respiro durante la notte potrebbe essere un segnale da interpretare? Certamente, soprattutto perché... se è una mancanza di respiro che compare mettendosi sdraiati, che si riduce, migliora mettendosi seduti. Si raccontava una volta del paziente con scompenso che si alzava e andava a aprire la finestra per prendere aria. Questo è uno dei sintomi caratteristici proprio dello scompenso, però sono anche abbastanza specifici, sì, e appunto certo. Soprattutto nel giovane è facile attribuirli allo stress o ad altre mi cose. Manca il fiato dallo stress, o faccio fatica perché non sono allenato. Lei ha sottolineato molto l'impegno, l'attività fisica e anche l'impegno, cioè se improvvisamente quello che noi regolarmente facevamo senza fatica diventa più faticoso, ci manca un pochino il fiato, indipendentemente dalle nostre età, potrebbe essere un segnale? Sì, questo sì, e qualche volta il problema è che si tratta invece di qualcosa di progressivo a cui soprattutto l'organismo giovane si adatta, e allora poi magari manifesta lo scompenso con un disturbo che noi non immagineremmo, che è la difficoltà digestiva, il senso di sazietà dopo aver mangiato poco, sì. Che è tipico anche dello scompenso del bambino e del giovane adulto. Dottoressa Frigerio, possiamo evitare in qualche modo che il nostro cuore si scompensi, e quindi lavorando magari sui fattori di rischio? Se li conosciamo. Certamente possiamo cercare di prevenire e rallentare la comparsa dello scompenso, ma per certi versi possiamo anche dire che lo scompenso è il prodotto del successo della medicina e della cardiologia, che allunga la vita, ci permette di vivere con condizioni che una volta portavano a morte, ma ci lascia magari un danno alla funzione del cuore che può progredire col passare del tempo. Per fortuna ci sono farmaci che ci possono aiutare a ridurre i sintomi, e farmaci che anche invece ci aiutano a rallentare o prevenire o qualche volta anche invertire la progressione del danno della funzione del cuore. I diuretici ci riducono i liquidi in eccesso, i beta bloccanti possono migliorare le prestazioni del cuore, e altre classi di farmaci hanno diverso impiego, e si tratta di combinarli nel modo appropriato. Lei ha sottolineato, è una malattia che non è solo degli anziani. E questo è importante perché solitamente anche nei nostri discorsi si pensa che lo scompenso sia il problema del nonno, dello zio anziano. In realtà si possono fare dei controlli, ci sono, e chi soprattutto dovrebbe farli con più attenzione? Lei sa bene che dal cardiologo si tende a non andare sino a quando, no, non si manifesta un problema. Ma può essere utile un controllo preventivo? Diciamo che la prevenzione è utile non solo per prevenire lo scompenso, ma anche per esempio le recidive di infarto nel paziente infartuato, quindi l'iperteso che cura bene la pressione previene lo scompenso. L'infartuato che segue le sue terapie previene lo scompenso. Ci sono poi delle popolazioni specificamente a rischio che possono essere di due tipi fondamentalmente. I parenti di soggetti che hanno una malattia intrinseca primitiva del muscolo cardiaco dovrebbero essere sottoposti a controlli anche in fase asintomatica e poi alcuni pazienti sottoposti a trattamenti antitumorali che si sa che possono provocare nel tempo un danno della funzione del cuore. Dottoressa Frigerio, come viene diagnosticato lo scompenso? Qual è l'iter diagnostico? L'iter diagnostico varia in rapporto alla presentazione. Se il paziente va dal suo medico e lamenta dei disturbi progressivi, bisogna fare prima di tutto una visita, un elettrocardiogramma e poi un ecocardiogramma, che è l'esame più semplice con ultrasuoni che ci fa vedere la funzione del cuore. Si possono anche dosare dei marcatori nel sangue. Se invece il paziente si accorge dello scompenso quando è già molto avanzato, lo scompenso esordisce acutamente, il paziente va in pronto soccorso e lì si gioca con l'internista, il medico della medicina d'urgenza e il cardiologo per fare il percorso che deve essere a quel punto molto personalizzato e molto rapido. Principio di magia fra gli ostacoli del cuore, mi si attacca volentieri fra una sera che non muore. È una E se lo scompenso diventa compagno di vita, il paziente deve imparare ad accettare e a gestire questa convivenza, quindi a portare dei cambiamenti al proprio stile di vita. Ne parliamo col dottor Maurizio Ferratini, che è in linea con noi, direttore della cardiologia riabilitativa della Fondazione Donne Occhi di Milano. Dottore, benvenuto. Grazie, dottoressa, buongiorno. Dottor Ferratini, possiamo dire che oltre ai farmaci c'è di più, c'è altro, c'è l'impegno del paziente che deve intervenire in un modo proattivo nel suo processo di cura, diventandone, come si dice, protagonista e anche adattandosi alle varie fasi della malattia cronica? Sicuramente, dottoressa, nella terapia e nel controllo degli sintomi dello scompenso, quando questo è presente, conta molto la partecipazione attiva del paziente ai programmi di cura e di prevenzione dello stesso e delle sue fasi di aggravamento. Il paziente ovviamente può e deve seguire delle misure di prevenzione non farmacologiche, che sono le misure che noi consigliamo a tutti i pazienti cardiopatici, ovviamente, l'abolizione del fumo, una dieta sostanzialmente leggera di tipo, diciamo così banalmente, mediterraneo, deve svolgere un'attività fisica moderata, e qui ci sono problemi poi dell'aderenza ai consigli di cui magari possiamo parlarne, deve controllare il peso corporeo, deve monitorare quotidianamente il peso e deve avere anche una dieta in linea di massima a basso contenuto di sale. Queste sono le misure, Queste diciamo, non che farmacologiche. valgono un po' anche per, no, per un po' per tutti noi, per chi ha problemi di cuore, per chi non le ha. Ma tornando al paziente scompensato, deve essere anche in grado di riconoscere precocemente i segnali di allarme. Quali sono? I segnali allarmi sono la progressiva riduzione della capacità di eseguire sforzi, l'affanno che compare sempre per passeggiate più corte, per delle minime attività fisiche quotidiane. Questo è il sintomo maggiore. Un altro sintomo importante può essere l'improvviso e progressivo, a volte, aumento del peso corporeo nonostante un mantenimento di una terapia stabile. Dottor Ferratini, in che modo la tecnologia potrebbe, se ancora non l'ha fatto, migliorare la gestione della malattia e la relazione tra il medico e l'equipe curante? Perché parliamo di equipe. Certamente io credo che dottoressa, lei si riferisca essenzialmente alla telemedicina, Certo. e la telemedicina può essere un presidio molto importante per implementare le diverse misure farmacologiche e comportamentali utili nel migliorare la cura del paziente con scompenso cardiaco. Il problema è però al momento una alfabetizzazione informatica del paziente ancora piuttosto scarsa nella popolazione prevalentemente affetta da scompenso cardiaco, che è vero, vi sono gli anziani, ma la maggior parte degli scompensati è ancora una popolazione anziana che non è abituata ad usare le tecnologie internet, e questo è un problema, non c'è dubbio. Dottor Ferratini, il supporto psicologico, quanto possiamo considerarlo terapia? Sicuramente i pazienti che entrano in una fase di scompenso sono pazienti che hanno prevalenze di ansia e di depressione maggiore rispetto alla popolazione normale, e pertanto un supporto psicologico, a volte anche farmacologico specifico, può essere sicuramente vantaggioso in questi pazienti. Dottor Ferratini, io so che lei è al congresso, che lo sta seguendo, per cui la lascio al 46° congresso che è in corso a Milano. Le auguro una buona giornata, grazie per essere stato con noi. Grazie dottoressa. Alla prossima. Grazie anche agli ascoltatori. Vorrei rispondere ad Alex, che ci chiama da Reggio Emilia, al 349-238-6666, ci scrive: non ho capito, mia figlia, 14 anni, ha extrasistole, mangia poco con senso di sazietà, devo farla visitare? Dottoressa Frigerio. È molto difficile rispondere ai casi individuali, perché noi siamo abituati a rispondere, a valutare un paziente nella sua globalità. Sicuramente deve rivolgersi al suo medico, in primo luogo di medicina generale, e direi che se le extrasistoli sono documentate, un elettrocardiogramma e magari un passaggio dal cardiologo non sono da disprezzare. Dubbi, domande, volete raccontarci la vostra esperienza? Vivete accanto ad un paziente scompensato? Siete un paziente affetto da scompenso? Volete raccontarci come è cambiata la vostra vita, se è cambiata? 800 24 00 24. Dottoressa Frigerio. Sì, volevo dire, anche a commento dell'intervento dell'ascoltatore precedente via SMS, che abbiamo proprio detto che si tratta di disturbi non specifici, quindi non tutti quelli che hanno un po' di affanno sono scompensati, non tutti i ragazzi inappetenti sono scompensati, magari anche lì bisogna andare a pensare per quale motivo uno mangia di meno, e non tutti quelli che hanno palpitazioni sono scompensati. Perciò, come in tutti i casi, i sintomi vanno descritti al medico, e poi il medico dovrà interpretare e selezionare quelli da avviare una valutazione specialistica. 800 24 00 24. Nella seconda parte della trasmissione vi aspetto, perché parleremo di trapianto, parleremo anche di cuore artificiale, forse molti di noi non ne hanno mai sentito parlare. La dottoressa Frigerio ha ideato un modo di descriverlo, cuore al guinzaglio. Sì, questo è un termine un po' così, diciamo, anche che vorrebbe suscitare la vostra curiosità. In realtà il cuore, che aiuta il cuore nativo, è dentro nel corpo, ma è collegato a un guinzaglio, a un cavo, che serve a far sì che questa pompa cardiaca sia fornita di energia. E quindi il paziente vive con una componente esterna che costituisce un legame, in qualche modo, e per questo appunto cuore al guinzaglio. Vi ricordate, qualche settimana fa avevamo parlato di rene portatile, un rene che è in fase di sperimentazione, potrebbe essere portato in una cintura. Insomma, ci sono tante novità, parliamone a tra poco, dopo il meteo e i mercati, con il dottor Martinelli e la dottoressa Frigerio e le vostre telefonate. Essere e benessere. Cominciai a sognare anch'io insieme a loro, poi l'anima d'improvviso prese il volo. Da ragazzo spiare i ragazzi giocare al ritmo balordo del tuo cuore malato, e ti viene la voglia di uscire e provare Che cosa ti manca per correre al prato? E ti tieni la voglia, rimani a pensare. Abbiamo ripreso la nostra trasmissione, la seconda parte della trasmissione, con questa splendida canzone di De André. Oggi parliamo di cuore. Perché lo facciamo? Perché si sta svolgendo in questi giorni a Milano il 47esimo congresso di cardiologia promosso dal Dipartimento Cardiotoracovascolare De Gasperis dell'ospedale Niguarda. Tutti i cardiologi italiani sono riuniti e noi abbiamo approfittato del direttore del convegno, del dottor Maria Frigerio e del dottor Luigi Martinelli, per portarli qua in trasmissione, raccontarci le novità e soprattutto aiutarci a capire qualcosa di più di una malattia dai grandi numeri di cui si parla poco, che è lo scompenso. Ne abbiamo parlato nel corso della prima parte della trasmissione, ho anticipato che ci sono dei casi in cui, oltre ai quando i farmaci non bastano, si deve intervenire chirurgicamente. Questa è un'occasione per affrontare il tema del trapianto di cuore, ma anche di quella che la dottoressa Frigerio ha definito cuore al guinzaglio, un cuore artificiale. Ne parleremo tra poco, ma sono tante le vostre domande che arrivano all'800 24 00 24. Vi ringrazio e vi invito a continuare ad intervenire. Intanto voglio dare la linea ad Antonio da Lecce, a Marco da Verona e a Giovanni dalla provincia di Milano. Antonio, buongiorno. Buongiorno, salve. Eccoci qua. Salve. Allora, volevo premettere che ho sempre fatto sport e ho sempre avuto una pressione piuttosto bassa, non sono mai stato sovrappeso, non fumo. Da un po' di tempo ho avuto problemi di digestione, di affanno, facendo anche le scale o anche solo una passeggiata. E poi ho notato anche una crescita del peso e della ritenzione, forti mal di testa e ultimamente della tosse accompagnata, diciamo, ad extrasistole. Ho fatto una visita cardiaca e mi hanno diagnosticato un problema alla valvola mitrale, cioè di riflusso, se non erro era questo il termine, e una dilatazione dell'aorta, una pressione piuttosto alta. Mi hanno soltanto prescritto una pillola. Antonio da Lecce, quanti anni ha? 49. 49. Mi hanno soltanto prescritto una pillola antipressione al bisogno, ma sentendo la trasmissione mi ritrovavo un po' nel problema dello scompenso, volevo avere diciamo una conferma. Dottoressa Frigerio. Beh, io prima di tutto voglio ringraziare chi ha scelto la canzone di De André, che tra l'altro si rifà a una traduzione di alcune poesie, antologia di Spoon River. Ogni medico penso abbia una specie di sua Spoon River di storie personali. E poi volevo ringraziare Antonio perché ha descritto perfettamente la storia dei sintomi dello scompenso. Lui ha descritto dal punto di vista del paziente le cose che prima noi abbiamo detto come medici: l'affaticamento, l'extrasistoli, l'affanno. Preciso. È un caso che va valutato individualmente, perché qualche volta queste forme possono essere tenute sotto controllo per un certo periodo di tempo con le medicine, qualche volta vale la pena di intervenire se non altro sull'insufficienza della valvola mitrale, magari appunto con delle terapie non troppo invasive che possono facilitare come dire, il recupero della funzione cardiaca dei sintomi. Non si può dare un consiglio sulla precisa storia di Antonio, però sicuramente è una condizione da approfondire. Marco ci chiama da Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, Marco. Io volevo più o meno capire, perché le spiego, ho tre generazioni alle mie spalle, quindi mio bisnonno, mio nonno, mio padre, che intorno ai 40 anni hanno manifestato lo scompenso e poi tutte e tre sono venuti a mancare causa infarto, tra l'altro tutti e tre per infarto massocardico. E, la questione è che noi, tra di noi si dice che, scherzando, la mia famiglia ha la scadenza. E siccome io chiaramente e tutti, tra l'altro, i miei predecessori erano persone che non fumavano, non eccedevano nel bere, persone attive, hanno sempre fatto tutti quanti sport e attività, io uguale, quindi controllo anche da parte, dal punto di vista della dieta e tutto quello che insomma può servire. Volevo sapere se eventualmente fosse attualmente disponibile, presente, una sorta di cura preventiva, un'attività preventiva. Perché Marco, lei ci ha raccontato che suo papà, suo nonno, si sono scompensati a un'età giovane. Noi l'abbiamo detto in apertura, non è solamente una malattia delle persone anziane, ma può colpire anche i giovani, 40 anni. Dottoressa, questa età, che cosa le dice? La prima cosa che volevo, se posso chiedere a Marco, è se i suoi parenti, che definisce morti di infarto, sono morti improvvisamente. Sì, assolutamente. Benissimo. Allora, io credo che prima di pensare a una prevenzione dello scompenso, nel suo caso, sia il caso di fare una valutazione cardiologica sua e dei suoi eventuali fratelli, perché quella che lei descrive è una condizione in cui ci può essere una forma di malattia familiare del muscolo cardiaco, anche se questo non lo posso ovviamente affermare con certezza, però c'è un sospetto significativo e direi che lei rientra proprio in quelle persone per le quali un programma di screening, cioè di valutazione preliminare, è raccomandato. Le consiglierei una visita cardiologica, un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma. Quindi, come minimo. Dottoressa Frigerio, se i nostri familiari si sono scompensati in età giovane, diciamo tra i 40 e i 50 anni, o sotto, o anche sotto, questa è una buona indicazione per una valutazione preliminare anche in assenza di qualunque disturbo, anche se c'è una storia di più di un caso di morte improvvisa in età giovanile. Andiamo a Giovanni dalla provincia di Milano. Giovanni, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho 66 anni, sì. Ho sempre svolto attività fisica, eccetera. Da circa un anno, 18 mesi fa, ho avuto due episodi a distanza di un mese e mezzo, due mesi, di fibrillazione atriale. Sì. Ho incominciato a fare, essere trattato Coumadin e Cordarone, tenuto sotto pressione, sotto controllo la pressione. Mm-hmm. È un anno che faccio abbastanza una dieta controllata, sì. non sono pesante, sono 1,70, peso 70 kg. Sì. Perché anche il peso è importante, ha fatto bene, sì, a sottolinearlo. Giovanni, devo chiederle di venire alla domanda. Sì, la domanda è: per la fibrillazione atriale, è un anno e mezzo che io sto bene, ho ripreso un'attività fisica, sì, eccetera. Vada. Per la fibrillazione atriale devo essere continuamente trattato a Coumadin e Cordarone? Non ci sono cure definitive? Vuole, esatto, sapere? Perché, sì, questo è sempre un po' il problema anche quando si parla di ipertensione, dottoressa, sì, Frigerio. Sì, la medicina contemporanea generalmente allunga la vita dei pazienti cronici. Detto questo, nel caso specifico della fibrillazione atriale, alcune forme possono essere risolte o si può cercare di risolverle con una procedura che viene chiamata ablazione. Di solito si fa a chi ha avuto più di due episodi, però può consultare un cardiologo specializzato in elettrofisiologia per il suo caso individuale. E invece noi con il dottor Martinelli, cardiochirurgo, vorremmo affrontare il tema del trapianto di cuore. Lei in apertura ha detto ci sono delle novità, la cardiochirurgia diventa sempre meno invasiva, ma il trapianto resta il trapianto, è un'operazione proprio, no, di, sì, direi, grande, che è il cuore, insomma si trapianta la vita. Il trapianto di cuore è una grande operazione, sicuramente non può essere concepito come un intervento da fare con tecniche mini-invasive. Allora, il trapianto è la vera cura dello scompenso avanzato, cosiddetto refrattario, quando non c'è più niente da fare per riparare il motore che si è guastato, l'unica soluzione è cambiarlo. E quindi il trapiantato di cuore vive con un nuovo organo che ha bisogno anche lui della manutenzione, come il cuore naturale ha bisogno di essere seguito, di essere protetto dagli insulti della vita, così il cuore trapiantato richiede una manutenzione adeguata con terapie immunosoppressive, certo, controlli periodici. Purtroppo però non ci sono cuori a sufficienza, la vita media, lo sappiamo, si è allungata, le donazioni non soddisfano le richieste, poi ci sono casi in cui il trapianto non è possibile perché le condizioni di salute del paziente non lo permettono e allora viene in soccorso il cuore artificiale. Cuore al guinzaglio, ormai l'abbiamo ribattezzato così da un'idea della dottoressa Frigerio che rende proprio bene l'idea di che cosa succede, di che cosa è effettivamente questo dispositivo che restituisce qualità di vita e vita ai pazienti che non possono essere trapiantati o in attesa di trapianto. Essere e benessere. Il cuore, alle dimensioni di un pugno chiuso, è una forma simile ad una pera con la punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore, segue il ritmo delle emozioni. Normalmente in una persona adulta il cuore si contrae 60-70 volte al minuto. In una persona innamorata molte di più. A volte si arriva a 100 senza rendersene conto. Non sei più tu che comandi quando sei innamorato. Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi, è lui. E siamo tornati nuovamente insieme, cuore artificiale, cuore al guinzaglio. Stanno arrivando molte telefonate, 800 24 00 24. Con la dottoressa Frigerio abbiamo pensato di proporvi questo. Voi continuate a chiamare. La dottoressa Frigerio, dopo la trasmissione, selezionerà alcune delle vostre domande e sarete ricontattati per un'eventuale risposta. Quindi chiamate liberamente, scompenso e dintorni. Dottor Martinelli, questo cuore al guinzaglio, in realtà proprio al guinzaglio, non è, ma che cos'è? In realtà non è neanche un cuore. È una pompa che si affianca al cuore naturale quando non è più in grado di svolgere la sua funzione. Ed è una pompa sempre più miniaturizzata. Esistono adesso dei sistemi molto piccoli che consentono di essere inseriti con un intervento chiaramente importante, ma con una tecnica meno invasiva, sempre rimanendo nell'ambito della riduzione dell'invasività rispetto a quanto succedeva in passato. Quindi queste macchine sono in grado di svolgere la funzione del cuore, però necessitano di avere un collegamento con l'esterno. Perché? Perché questo è il guinzaglio. E il guinzaglio è questo, perché hanno bisogno di energia. L'energia viene fornita da delle batterie o dalla rete elettrica esterna, per cui la tecnologia attuale non consente ancora l'impianto totale della macchina. Deve avere questo piccolo collegamento esterno che può essere fastidioso, ma che è vitale per il paziente. E quanto dura questa batteria? Quante autonomia ha un paziente col cuore al guinzaglio? Può fare una vita normale, si gira con il suo guinzaglietto, che è poi un borsellino, no? Una specie di borsello? Cioè il guinzaglio è un cavo come un cavo elettrico di medie dimensioni. Ma quanto può avere di autonomia? 8-10 ore? Poi alla notte cosa fa? Allora, l'autonomia con le batterie attuali è di 12 ore per batteria, quindi uno si può portare dietro anche due coppie di batterie e sta 24 ore in totale autonomia. E durante la notte in genere si collega il dispositivo alla rete elettrica di casa ed è garantito, ovviamente, se ci sono dei cali di corrente o delle interruzioni improvvise non previste, le batterie intervengono e garantiscono la sopravvivenza del paziente, quindi non è quello il problema. La tecnologia però sta sviluppando dei sistemi di trasmissione di energia per ricaricare delle batterie sottocutanee che libereranno finalmente dal guinzaglio. Quindi dottoressa Frigeri ha fatto proprio quasi in tempo, no, a inventare questo nome, che magari non ci sarà più il guinzaglio, ma dottoressa Frigerio, come vive il paziente con un cuore al guinzaglio, che abbiamo detto può essere utilizzato in attesa del trapianto o può sostituire anche addirittura il trapianto, perché ci sono pazienti che vivono con questo dispositivo anche per anni e anni? Sì. Prima di tutto bisogna sapere come vivono questi pazienti prima o senza questo intervento. Prima o senza, questi pazienti vivono in ospedale, dipendenti da farmaci in vena, qualche volta in terapia intensiva, qualche volta entrano e escono dagli ospedali, sono quelli che gli americani chiamano i frequent flyers. Sì. Quindi è con questo che ci paragoniamo e non con una vita di un soggetto sano. Questi pazienti devono prendere farmaci, non possono fare sport di contatto, non possono, proprio per questo collegamento con l'esterno elettrico, immergersi nell'acqua e fare il bagno e nuotare, ma possono fare una vita che include una quota di attività fisica, possono svolgere la loro vita di relazione, possono andare a lavorare, possono andare in bicicletta, possono portare a spasso il loro cane, andare in ufficio, fare le pulizie di casa e molte Quindi, altre cose. Ritornare a vivere non come una persona sana, ma in modo assolutamente migliore di quello precedente, con un'aspettativa di vita migliore, un allungamento della vita. La persona sana, tante volte sì, la loro vita assomiglia a quella di una persona sana, certamente non è identica, ma io credo che l'invecchiamento della popolazione e il trattamento delle malattie croniche fa sì che di completamente sano, dopo una certa età, ce ne siano pochi in giro. La cosa bella è che ci sono tante persone con malattie croniche che possono condurre una vita soddisfacente. Che aggiungono qualità alla vita. Allora io dedicherei gli ultimi minuti della trasmissione, dottoressa Frigerio, per darci un appuntamento. C'è la notte dei ricercatori a Milano, un grande evento, venerdì 27 abbiamo un appuntamento che possiamo ricordare e possiamo invitare proprio gli ascoltatori di Essere Benessere. Lascia lei l'invito. Sì, grazie. Nell'ambito di questo evento, che è un evento molto più vasto, sostenuto dalla Comunità Europea, dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia, si svolge in diverse città. A Milano c'è ai Giardini Pubblici Indro Montanelli questo evento, una specie di fiera della ricerca a cui il nostro ospedale ha deciso di partecipare con il nostro dipartimento sul tema biologico-meccanico trapianto e cuore artificiale. Noi saremo lì con uno stand dove potrete vedere le macchine, vedere i risultati di questa terapia, incontrare anche i pazienti e con la sua cortesia incontrare anche la dottoressa Carbone, sì, che condurrà un incontro alle 19 presso lo spazio conferenze. Allora, appuntamento a venerdì 27 per gli ascoltatori che ci seguono da Milano o nei dintorni di Milano, per gli ascoltatori che magari saranno di passaggio a Milano proprio per questo evento. Intanto, se avete chiamato, la dottoressa Frigerio selezionerà alcune delle vostre telefonate per rispondere alle vostre domande. Dottoressa Frigerio, grazie. Dottor Martinelli, grazie anche a lei. Oggi abbiamo parlato di una malattia di cui si parla poco e questo mi fa molto piacere perché abbiamo fatto informazione e forse molti di noi avranno saputo per la prima volta, scoperto che oltre al cuore naturale esiste un cuore artificiale, il cuore al guinzaglio. Grazie a voi, grazie. Noi ci sentiamo domani, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, alla parte tecnica, e a Laura Vanossi come sempre in redazione. Per oggi è tutto, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi aspetto domani. Essere e benessere.